L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. E benvenuti, abbiamo una puntata davvero ricca oggi e credo che non sarà facile condensare le tante cose che sono accadute, che sono successe tra sabato scorso 21 novembre e la giornata di ieri, venerdì 27 novembre. Non mancherà naturalmente la politica, ma soprattutto cercheremo di fare il punto sulle indagini sulla morte di Brenda, la trans coinvolta nell'affare Marrazzo. Poi vi segnalo già in anticipo un approfondimento sull'economia con Dino Pesole, collega del Sole 24 Ore, perché sono giorni di finanziaria, di assestamenti e anche di polemiche sulla finanziaria. Però diamo la precedenza alla politica non legata, lo ripeto, non legata all'economia e alla finanziaria, ci arriveremo più tardi. Anche qui gli spunti sono moltissimi, ancora una volta legati al fronte, ormai di guerra, possiamo dirlo apertamente, di tutti contro tutti, della giustizia. Però cominciamo subito da un'uscita che è sorprendente e anche sopra le righe del presidente della Camera Fini su un tema peraltro a lui molto caro, quello dell'immigrazione e dell'integrazione degli immigrati, almeno quelli regolari, nel nostro paese. Sabato Fini, davanti a un gruppo di studenti, mette un po' da parte il bon ton che il suo ruolo istituzionale richiederebbe e usa parole appunto che fanno un certo scalpore. Sentiamo Vincenzo Miglietta. Un termine crudo ma giustificato dall'importanza del tema dirà poco dopo il portavoce del presidente della Camera. Fatto sta che ancora una volta Fini riesce ad accendere il dibattito politico intorno al tema dell'immigrazione. Chi dice che gli stranieri sono diversi è uno stronzo, spiega l'ex leader di AN ad una platea di bambini di diverse etnie durante un incontro organizzato in una periferia romana da un'associazione che opera per l'integrazione degli extracomunitari. Se qualcuno pensa che siete diversi, spiega il presidente della Camera, qualche parolaccia se la merita. Qualche volta c'è qualche stronzo che dice una parola di troppo, anche se scappa una parola. L'importante è non offendere nessuno, però se qualcuno vi dice che siete diversi per il colore della pelle o perché venite da un altro paese, la parolaccia la merita, voi la pensate, gliela dico io, così siamo pari. Il presidente della Camera non rinnega poi la legge Bossi-Fini sull'immigrazione, ma spiega un paio di modifiche sarebbero necessarie. A Fini replica il ministro Calderoli, è vero che è stronzo chi dice che lo straniero è diverso, spiega l'esponente della Lega, ma è altrettanto stronzo chi illude gli immigrati. Dal PDL però il vice ministro Urso parla di un Fini coraggioso, si dicono d'accordo con il presidente della Camera Cesa, UDC e Bindi del Partito Democratico, quest'ultima auspica cambiamenti profondi nella politica dell'immigrazione. Insomma, l'avete sentito, Fini è riuscito a dare piena cittadinanza e anche titolo in prima pagina sui giornali alla parola stronzo, in attesa poi di vedere se e quando Fini vedrà coronato il suo progetto invece di dare una cittadinanza più veloce agli immigrati regolari e la possibilità di voto almeno alle amministrative. Però invece a livello di velocità il Parlamento si muove soprattutto sul discorso del processo breve, che è il primo punto nell'agenda di Berlusconi in queste settimane. Martedì il testo arriva alla Commissione Giustizia del Senato per un debutto davvero rapidissimo. Ecco come si presenta la situazione proprio martedì mattina in questo servizio di Elisabetta Fiorito. Nel giorno in cui il processo breve inizia il suo iter a Palazzo Madama, Silvio Berlusconi pensa ad un intervento pubblico sulla giustizia, magari nell'aula del Senato per spiegare agli italiani il perché della riforma. Il Premier lo annuncia dal Qatar. Ci sarà il momento opportuno per spiegare agli italiani qual è la situazione in cui siamo. Il ministro della giustizia Angelino Alfano contesta la tempistica nelle aperture delle inchieste contro Berlusconi. Nessuno è riuscito a rispondere alla domanda che è questa: come mai tutte le inchieste si siano concentrate su di lui dal 1994 in poi, cioè da quando è sceso in politica. E Alfano replica al PM Spataro che l'accusa di gestire la giustizia come un'azienda. Io lo rivendico con orgoglio. Secondo noi la giustizia italiana dovrebbe andar bene come un'azienda che funzioni. Ma intanto è guerra di cifre tra governo e Associazione Nazionale Magistrati. Con il processo breve ci sarà lo stop al 50% dei dibattimenti in corso nelle grandi città, dicono i PM. La NM dai numeri, replicano dal PDL. La giustizia resta perennemente, oserei dire persino stancamente, in prima pagina sui giornali in questi giorni. Sempre martedì arriva l'ennesima puntualizzazione di Fini, che ci tiene a dire che il processo breve non va confuso con la riforma più generale della giustizia, e poi sul tema della giustizia, ma più in generale anche delle riforme, apre al PD di Bersani. Poi giovedì Berlusconi cala il suo carico da 90 sul tavolo e naturalmente si nota subito che rispetto alle parole di Fini quelle dette da Berlusconi sono praticamente il loro contrario. Infatti i bersagli del Premier sono poi i soliti: i magistrati che vogliono far cadere il governo e dividere l'Italia, usa parole forti, parla addirittura di guerra civile, di rischio guerra civile. Poi c'è la RAI che fa trasmissioni a giudizio di Berlusconi faziose contro di lui e contro il governo, e naturalmente c'è la frecciata contro i dissidenti all'interno del Popolo delle Libertà, quindi in pratica ancora fini. Questo è il commento ieri mattina nel GR delle 7 firmato da Stefano Folli. Silvio Berlusconi è un combattente che guida il suo esercito in una battaglia decisiva, solo che la battaglia potrebbe essere l'ultima e non è detto che l'esercito sia compatto fino alla fine. Ieri sera lo è stato e il vertice del Popolo della Libertà ha votato compatto un documento che suona come appoggio pieno al leader e rilancio di una linea intransigente sulla giustizia soprattutto e poi sulle istituzioni, con la richiesta di una forma di presidenzialismo. Ma i toni forti, gli attacchi ai magistrati, alla RAI, il monito agli avversari interni minacciati con quel chi non si adegua è fuori, non riescono a nascondere un dubbio, e cioè se la controffensiva di Berlusconi sia in ultima analisi una prova di forza o invece di debolezza. Forse è più la seconda ipotesi della prima, ma in entrambi i casi il rischio è che la guerra civile tra poteri dello Stato diventi presto una realtà, il che equivale a una certezza che al termine resteranno solo macerie. E non a caso sulla giustizia ieri Napolitano ha invitato alla calma un po' tutte le parti in causa. L'ottavo giorno. Luca, devo fare qualche aggiunta rispetto a quanto abbiamo sentito prima della pausa, perché andavo un po' di fretta e quindi devo citare almeno un altro paio di notizie sulla politica di questa settimana. Intanto è stata fissata proprio ieri per il 4 dicembre, per la settimana prossima, la prima udienza del processo Mills che rivede coinvolto Berlusconi dopo il naufragio del Lodo Alfano. Ghedini, il suo avvocato, ha già detto che il 4 dicembre, che è un venerdì, quindi la cosa è del tutto plausibile, c'è un Consiglio dei Ministri, quindi scatterà il legittimo impedimento. E credo che questo refrain andrà avanti per molto nel caso di Berlusconi, almeno finché il processo resterà in piedi. Sam Berlusconi poi dovrà affrontare un'altra bega non da poco, cioè la causa di divorzio con la moglie Veronica, che gli ha già chiesto un assegno da 3 milioni al mese, 3 milioni di euro, quindi siamo veramente a cifre pazzesche. E cito brevemente anche gli sviluppi della vicenda invece di Nicola Cosentino, il sottosegretario all'economia, che poteva diventare candidato in campagna per il PDL e invece si è trovato nel bel mezzo di un'inchiesta sui Casalesi, quindi inchiesta molto, molto pesante e molto grave. Mercoledì il Senato ha respinto le mozioni del PD e dell'Italia dei Valori che chiedevano le dimissioni di Cosentino, mentre nuova puntata il 10 dicembre, quando toccherà alla Camera esaminare la richiesta di custodia cautelare. Lasciamo adesso la politica, veniamo invece ad una brutta storia di Brenda, che però con la politica entra sicuramente in contatto. Brenda, la trans coinvolta nell'affare Marrazzo, che è stata trovata morta nella sua casa incendiata il 20 novembre, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Ci sono davvero poche certezze per il momento sulla morte. Per cercare di dissipare qualche dubbio, per fare un po' il quadro della situazione, abbiamo qui in studio, mi fa molto piacere averlo accanto, Marco Ludovico, della Cronaca di Roma, spesso segue anche quella nera. Buongiorno Marco. Buongiorno. Allora, l'inchiesta ha offerto novità praticamente tutti i giorni in questa settimana. Torniamo a due giorni fa, giovedì mattina, con questo servizio di Paolo Panceri. Sono circa 60.000 i file, tra visibili e cancellati, presenti nel computer di Brenda, la transessuale testimone nell'inchiesta sul caso Marrazzo, trovata morta il 20 novembre per asfissia da fumo nel suo monolocale di Roma. Il PC era sotto l'acqua corrente del lavandino, forse per salvarlo dall'incendio o forse per danneggiarlo. I consulenti tecnici della procura stanno completando la scansione dell'hard disk del PC. Per ora è stato recuperato il 16% del contenuto. E già oggi magistrati inquirenti potrebbero avere le prime informazioni. Nel frattempo gli investigatori ieri mattina hanno compiuto un nuovo sopralluogo nell'abitazione di Brenda alla ricerca di ulteriori elementi utili per ricostruire la morte della trans. Inoltre a breve sarà risentita in procura la trans Cina, che nel programma Porta a Porta di qualche giorno fa ha parlato di circa 30.000 euro consegnati a Brenda dall'ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, cifra della quale non aveva fatto parola durante il primo interrogatorio dopo la morte di Brenda. Secondo l'avvocato dell'ex presidente del Lazio, Luca Petrucci, è importante mettere sotto protezione i testimoni. A Marrazzo la protezione non va tolta. Allora, siamo in compagnia di Marco Ludovico, collega del Sole 24 Ore, ha seguito in questi giorni l'evolversi della vicenda Brenda, scusate la rima involontaria. Io, Marco, mi limito a dire le poche cose certe, almeno dal punto di vista dei magistrati, e cioè l'autopsia ha confermato che la morte è avvenuta per intossicazione da monossido di carbonio, quindi gli effetti dell'incendio, però gli inquirenti hanno subito scartato l'ipotesi del suicidio. Per il resto si sa ancora poco e gli inquirenti stanno indagando per omicidio. Quali sono i punti su cui bisogna focalizzare l'attenzione per capire bene di cosa stiamo parlando? Sicuramente il computer in questo momento è l'oggetto del contendere. Secondo alcuni questo computer fa tremare tutta Roma perché all'interno potrebbero esserci video molto compromettenti e non necessariamente riguardano soltanto Marrazzo. Il computer trovato nel lavandino della cucina, immerso nell'acqua, è salvato dagli inquirenti, lo ricordo perché ci sta ascoltando. E tra l'altro vorrei aggiungere che la scena del delitto, poiché i primi a intervenire sono stati i pompieri, è stata sicuramente e gravemente compromessa, perché naturalmente i pompieri, quando intervengono, per primo e unico obiettivo hanno quello di spegnere l'incendio e quindi non guardano impronte, non guardano a tutelare cose, oggetti. Purtroppo sono arrivati tardi perché Brenda era morta. Questo computer è stato messo in una posizione che ha fatto pensare a molto, che ha dato luogo a suggestioni perché potrebbe trattarsi di un messaggio simbolico. Secondo alcuni, infatti, è stato detto che poteva essere messo lì nell'acqua perché bisognava lavare e pulire il gesto di chi attraverso ricatti aveva conservato filmati che non dovrebbero essere visti. Ma vorrei sottolineare che siamo assolutamente alle suggestioni. Quello che è certo è che il contenuto del computer è stato tutto recuperato, salvato e messo in un compact disc che in questo momento il procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo ha custodito nella sua cassaforte. Tu su Sole 24 Ore hai scritto che hanno fatto anche una copia per sicurezza, hanno clonato praticamente questo hard disk imponente. Ci sono circa 60.000 file per 130 gigabyte, quindi parliamo veramente di contenuti belli sostanziosi di questo computer. Infatti la stessa cifra dei 60.000 è ufficiosa, potrebbero essere anche 80 o persino 100.000, i numeri si rincorrono. In realtà c'è un problema di verifica di tutti questi file, ma prima ancora questi file devono essere aperti e il procuratore continua a dire che non li ha ancora aperti e non li ha ancora visti. In realtà tutti noi cronisti di giudiziaria non crediamo che da due giorni questo CD non sia stato ancora visto. Il problema è effettivamente che cosa può contenere. Sono nato per curiosità, per capire cosa c'è dentro. Esattamente. Al momento tutte le ipotesi però sono aperte e la procura non si sbilancia. Il problema può essere un altro, che dentro questo computer ci sia davvero troppo, non soltanto le eventuali prove che confermino le ipotesi di omicidio su Brenda o del ricatto su Marrazzo, ma anche testimonianze filmate o immagini che mettano in mezzo altri nomi. In questo caso questo computer potrebbe trasformarsi in una vera e propria mina vagante per la politica. Un computer bollente, tra l'altro. Ecco, invece su di Brenda forse non è stato chiarito molto qual è il vero nesso poi tra Brenda e Marrazzo, no? Il caso Sbelli poi da cui è partita tutta la vicenda. Qual è il contatto tra la trans e l'ex presidente della regione Lazio? Marrazzo incontrava sia Nathalie, l'altro trans protagonista di questa vicenda, sia Brenda, come lui stesso ammette in un interrogatorio verbalizzato dai carabinieri del ROS, tanto che lui stesso non la chiama Brenda ma la chiama Blenda. Questo interrogatorio però contiene molte affermazioni abbastanza incerte di Marrazzo, perché lui stesso ammette che l'incontro è stato fatto in una condizione particolare, anche perché ci sono alcuni particolari della vicenda Marrazzo importanti sotto il profilo investigativo che però non sono stati ancora chiariti. Parliamo di soldi e circolano cifre molto importanti, si parla di 5.000 euro, ma secondo Cina addirittura si parla di 30.000 euro e poi si parla di cocaina. L'avvocato di Marrazzo smentisce categoricamente per il momento queste cifre così grosse, cioè i 30.000 euro. L'avvocato di Marrazzo infatti ha detto che per gli incontri Marrazzo pagava 1.000 euro. Ora, a parte il fatto che 1.000 euro sono comunque cifre assolutamente spropositate rispetto a quelle, bisogna dirlo, di mercato di questo settore, il gli inquirenti stanno facendo anche riscontri di tipo bancario, perché molto non torna di tutte queste dichiarazioni. Tra le cose che non tornano c'è da qualche giorno anche la morte di Gian Guerino Cafasso, che in estrema sintesi è il pusher delle trans, poi coinvolto nello scandalo Marrazzo, che avrebbe avuto un ruolo di peso nella fallita compravendita del video girato proprio dai carabinieri ai danni di Marrazzo. Da qualche giorno quella che sembrava una morte per overdose di infarto a distanza ormai di 2 mesi, invece per gli inquirenti assume forse un altro significato, perché appunto in seguito quasi alla vicenda di Brenda pure quella di Cafasso si è complicata, lo ricordo, morto il 12 settembre in un albergo sulla Salaria a Roma. Sentiamo gli sviluppi allora della vicenda Cafasso in questo servizio di martedì firmato da Raffaella Calandra. Eliminare le prove, quello che all'inizio era solo un timore ora è ben più che un sospetto per chi indaga sulle due morti legate al caso Marrazzo. Droga truccata ha ucciso Rino Cafasso, mentre dal PC di Brenda sono stati cancellati centinaia di file con immagini e video. Troppo, secondo gli investigatori, per non vedere un'unica regia. Sembrava cocaina, ma era eroina mescolata forse con anestetici, la droga sniffata dal pusher. Lui avrebbe smesso di respirare in pochi secondi e chi ha preparato quella dose, ritengono gli esperti, doveva conoscerne l'effetto. È stato il marocchino che gliel'ha venduta? E perché Jennifer, la trans sua convivente, non l'ha presa? Qualcuno si è servito di mio figlio, si sfoga Laura, la madre di Cafasso. Penso che sia stato ricattato e messo in mezzo. Non credo proprio che sia stato capace di architettare queste cose nel breve tempo che è stato a Roma. Cafasso avrebbe cercato di vendere il video di Marrazzo, mentre il secondo filmato dell'ex governatore con un'altra trans, Michelle, dovrebbe essere tra i file del PC di Brenda recuperati dagli investigatori. Me ne sono disfatta per paura, aveva raccontato lei stessa. Una frase inquietante ora che è morta, come quel PC messo sotto l'acqua. È una messa in scena o un messaggio per chi ancora ha i segreti di clienti VIP? Marco Ludovico, non credo che sia un caso che nei giorni in cui si apre l'inchiesta per la morte di Brenda si apre d'incanto, o comunque prende una piega molto diversa, anche l'inchiesta sulla morte di Cafasso. C'è un legame tra le due vicende? La procura ancora non lo conferma, evidentemente lo ipotizza. Però bisogna anche spiegare ai nostri ascoltatori che di certo, al momento, cioè il fatto che la procura procede per omicidio in entrambi i casi, perché questo gli consente di fare una serie di accertamenti che non avrebbe potuto fare se ci fosse stata l'ipotesi di morte naturale per Cafasso e di morte incidentale per Brenda. Detto questo, i riscontri veri potrebbero arrivare o dal computer di Brenda o dai traffici dei tabulati telefonici che in questo momento stanno facendo i carabinieri, perché diversamente non credo che basterà soltanto il risultato tossicologico che già dice che Cafasso ha assunto un'overdose a dimostrare che è stato ucciso. Allora, abbiamo ancora 30 secondi. Io ti chiedo proprio in nome della tua esperienza e di quello che hai imparato sul campo seguendo in questi giorni le vicende di Brenda, di Cafasso e comunque tutto l'affare Marrazzo, secondo te dietro queste morti di Brenda e di Cafasso chi c'è? Possono essere delle fatalità, ci può essere la malavita, o qualcuno ipotizzava, non so, i rumeni per regolamenti di conti interni, oppure come forse vorrebbero appunto le suggestioni di cui abbiamo parlato anche in questi minuti, c'è dietro una mano pesante, una mano importante della politica, dell'economia, che ne so, dello sport, dello spettacolo, quindi si va veramente a trame oscure. Tu alla fine della fiera che idea ti sei fatto? È molto difficile resistere alla lusinga delle suggestioni. Se vogliamo stare con i piedi per terra, diciamo che al momento non si può escludere assolutamente nulla. Certo è che è difficile immaginare che per due casi tra di loro molto collegati si tratta in entrambi i casi di incidente. Grazie a Marco Ludovico. Rimangono naturalmente i dubbi perché c'è la procura e non potevamo risolverli noi. L'ottavo giorno. Come anticipato prima della pausa, adesso ci caliamo nei sentieri impervi, ma che poi sono molto sensibili, noi tutti siamo molto sensibili a questi sentieri, dell'economia, perché sono giorni nei quali la finanziaria 2010 ha iniziato il suo percorso in Parlamento e mi sembra che sulla finanziaria si stiano un po' sfidando le due anime che in questo momento spiccano all'interno della maggioranza, quella più rigorista, diciamo così, cappeggiata naturalmente da Tremonti, che vuole una finanziaria leggera, sostenuta praticamente soltanto dai soldi che stanno rientrando con lo scudo fiscale, senza tagli alle tasse, senza IRAP e quant'altro, e poi invece l'anima magari più disposta ad aprire i cordoni della spesa, e il paladino di questa falange è naturalmente Brunetta. E tra Tremonti e Brunetta c'è stata una querelle, forse per dei lavori interessanti, non lo so, in questi giorni. Tra poco parleremo anche della sfida tra i due ministri. Adesso, per capire esattamente il tema della finanziaria, riascoltiamo Vincenzo Miglietta di giovedì mattina. Sviluppo, welfare, enti locali. Riparte da queste modifiche a Montecitorio il testo della manovra economica. Per questi settori arriveranno 4 miliardi di euro frutto dello scudo fiscale, dice il relatore di maggioranza Corsaro, che tuttavia anticipa: nel testo non rientreranno IRAP, IRPEF e cedolare sugli affitti. Di finanziaria parla intanto il presidente della Camera Fini, che mette le mani avanti e dice no a voti di fiducia su testi blindati dal governo. Una cosa metterebbe il presidente della Camera attuale in una grossa difficoltà: se il voto di fiducia fosse chiesto non sul testo che esce dalla Commissione dopo tutto il tempo necessario perché la Commissione arrivi ad una conclusione, bensì su un maxi emendamento che, come sempre, viene predisposto dal governo. Altro capitolo: l'uscita dalla crisi e il braccio di ferro tra Tremonti e Brunetta. Il ministro dell'economia più volte ha invitato a diffidare da chi promette ricette miracolose che coniugherebbero rigore e sviluppo. Una vecchia polemica questa di Tremonti con il ministro della funzione pubblica. Ieri la replica di Brunetta: anche nel rigore si può fare sviluppo. Io queste cose le conosco, Tremonti non è un economista. Ci sono moltissime riforme che non solo non costano, ma che fanno risparmiare, e sono le riforme di modernizzazione. Brunetta in un comunicato poi spiega: nessuna polemica con Tremonti, ma io sono un economista, lui è un giurista. Nel frattempo abbiamo fatto una sostituzione in studio, ci ha lasciato Marco Ludovico e ci ha raggiunto Dino Pesole, entrambi firme del Sole 24 Ore. Buongiorno Dino. Buongiorno. Allora Dino, tu di finanziarie che sono nate e morte in Parlamento ne hai viste tantissime. Noi ci ritroviamo dopo qualche settimana, forse anche un paio di mesi, perché ti avevamo reinvitato per parlare dello scudo fiscale, che all'epoca era appena stato approvato, e adesso i soldi che stanno arrivando con lo scudo fiscale stanno animando questa finanziaria 2010 di cui si sta discutendo animatamente in Parlamento. Intanto vorrei capire esattamente di che cosa in Parlamento si sta parlando in questi giorni, e poi a questo punto, un po' anche sviluppando quello che abbiamo sentito di Vincenzo Miglietta, dove Tremonti dà e dove invece non vuole dare. Beh, questo è il secondo passaggio parlamentare della finanziaria, la finanziaria leggera, perché parte con uno stanziamento complessivo che non supera i 3 miliardi, quindi obiettivamente in questo si può definire solo come una sorta di aggiornamento della finanziaria triennale che è stata varata lo scorso anno. Allora, in Senato cosa è successo? Praticamente quasi nulla, perché c'era una fortissima pressione della maggioranza perché Tremonti in qualche modo aprisse i cordoni della borsa. Tremonti ha lasciato, diciamo, pochi spiccioli lì sul tappeto, tipo 100 milioni o qualcosa di più, dicendo: ne riparliamo alla Camera, perché alla Camera sarà più chiaro quanto incasseremo dallo scudo fiscale. Questo quando avverrà? Dunque, questo sta praticamente avvenendo, perché sostanzialmente entro il 15 di dicembre dovrebbero entrare questi 4 miliardi, che poi è la cifra che un po' tutti all'economia considerano quella più attendibile. Ma tu ti aspetti un Tremonti meno implacabile alla Camera, o ha solo preso tempo per calmare le acque? No, io penso che Tremonti abbia chiaramente espresso in commissione bilancio ai deputati qual è la linea, e che è sostanzialmente questa: tutto quello che si può fare rispetto al testo della Camera lo si può, anzi lo si deve finanziare con i soldi dello scudo fiscale, quindi 4 miliardi, e lui ha detto non un euro. Cioè, per il resto più non c'è tripa per gatti, come non si ce dice n'è a Roma. Non ce n'è assolutamente. Allora, il problema qual è? È che Tremonti mette sul campo 4 miliardi, le richieste della maggioranza ammontano a 8-10 miliardi, si tratta di scegliere. A questo punto, molto probabilmente, poiché come abbiamo sentito dal servizio non ci saranno i tagli all'IRAP, non ci saranno interventi sull'IRPEF, non ci sarà la cedolare secca sugli affitti, anche questa era una era una misura molto importante, molto attesa. I 4 miliardi si concentreranno sostanzialmente in una serie di spese obbligatorie, ne dico una per tutte: il rifinanziamento delle missioni internazionali all'estero, che non si possono procrastinare naturalmente, che non sono finanziate al momento. E poi ci saranno nuovi fondi per la ricerca, per l'università, si parla di rifinanziare il 5 per 1000, si parla di un ulteriore potenziamento delle risorse dirette agli ammortizzatori sociali, perché il problema fondamentale è che noi è vero che stiamo uscendo dalla crisi, ma sull'occupazione l'impatto è ancora notevole, e dunque il governo, secondo me, correttamente parla di un potenziamento di quello strumento che è l'unico che abbiamo, quella sorta di paracadute per far sì che chi perde il lavoro poi non rimanga senza un quattrino. Ecco, adesso naturalmente tra pochi minuti ti voglio chiedere per esempio che cosa dice e che cosa pensa Berlusconi, che non a caso sul taglio dell'IRAP è estremamente sensibile e Tremonti per ora non gliela taglia. Però sicuramente Tremonti, come tutti noi, abbiamo anche dato un occhio ai dati dell'OCSE che sono usciti lunedì e che sono anche piuttosto generosi, incoraggianti per l'Italia. Riascoltiamo Anna Marino. Sorpasso dell'Italia sull'Europa nella crescita economica, secondo i dati OCSE. Nel terzo trimestre dell'anno il nostro paese è cresciuto infatti più della media europea. Dopo 5 trimestri negativi, l'Italia ha finalmente messo a segno un più 0,6% rispetto ai 3 mesi precedenti. Leggermente inferiore il dato ai paesi del G7, che sono cresciuti dello 0,7%, ma superiore sia alla media europea, ferma allo 0,2%, sia all'area euro, che comunque raddoppia allo 0,4%. In cima alla classifica della ripresa, l'area OCSE, risalita dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, mentre prima si era fermata registrando uno 0. Anche Dominique Strauss-Kahn, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, rassicura. La tempesta è passata, ha detto, il peggio è stato evitato, ma l'economia globale resta molto vulnerabile. E secondo il numero 1 dell'FMI, la preoccupazione è ora soprattutto per i paesi avanzati che ancora dipendono dal sostegno pubblico. Inoltre, la disoccupazione resta ai massimi e la sostenibilità della ripresa dipenderà dalle decisioni che la politica assumerà nei prossimi mesi. Insomma, per l'FMI ci vuole ancora tempo. Dino Pesole, allora con te io vorrei capire se ci può essere un nesso tra i dati dell'OCSE e la finanziaria che sta prendendo forma in Parlamento. Mi spiego meglio. Se da un lato l'OCSE vede segnali buoni per l'economia italiana dall'anno prossimo, perlomeno, e lo stesso Tremonti martedì davanti all'industria Romagna ha detto: ragazzi, il peggio è passato. Se l'Economist, ho letto tra l'altro, che non è mai tenero storicamente con Berlusconi e col centrodestra italiano, però l'Economist ha detto che l'Italia rispetto ad altri paesi europei avrà meno bisogno di un exit strategy dalla crisi. Quindi di fronte a questi segnali positivi, a questi chiari di luna, ci sono, no, questi benedetti margini per liberare gli ormeggi? Uso un'espressione cara a Brunetta, come ha detto nella famosa ormai intervista al Corriere della Sera di qualche giorno fa. Innanzitutto leggiamo bene questi dati dell'OCSE. E poi ognuno legge a modo suo, abbiamo visto anche due giorni fa da Santoro, esattamente, Tremonti e Bersani. Allora, è vero che l'OCSE registra un miglioramento negli ultimi mesi e correttamente prevede per il prossimo anno una qualche ripresa. Però ricordo che noi quest'anno chiuderemo l'anno con una contrazione del PIL, vale a dire della ricchezza nazionale, che sarà almeno del 4,8%. Abbiamo un debito pubblico che si colloca tra il 115 e il 118% del PIL e abbiamo un deficit quest'anno del 5% del PIL. Quindi rispetto agli altri paesi europei siamo ampiamente indietro. Su questi elementi. Per quel che riguarda il debito, senz'altro sì, per quel che riguarda il deficit no, ci sono paesi che stanno addirittura peggio di noi. Allora, questo io lo premettevo per dire che è questo il motivo per il quale secondo me Tremonti, più che farsi interprete di una linea astratta di rigore, che secondo me non sarebbe nemmeno perseguibile, perché nessun ministro delle finanze è così folle da se ha dei margini da non concedere anche per motivi politici, evidentemente. No, il problema è qui una dose di realismo, perché con questi dati i margini sono ristretti. All'interno di questo, ovviamente, qualcosa si può fare. La conclusione del ragionamento è che molto probabilmente di tagli alle tasse si potrà ricominciare a parlare, se la situazione economica complessiva lo consentirà, non prima della metà del prossimo anno. Quindi insomma bisogna aspettare un po' di tempo. Implicitamente mi ha anche risposto quindi che cosa sta facendo Berlusconi: non può far altro che seguire la linea di Tremonti. Non può far altro al momento che seguire la linea di Tremonti, cercando di verificare con lo stesso Tremonti se nel frattempo si aprono dei margini aggiuntivi. Ad esempio, poiché già all'inizio del nostro approfondimento di oggi parlavamo dello scudo fiscale, come sembra, dalla proroga eventuale dello scudo fiscale al 15 aprile del 2010 emergeranno nuove risorse, quelle potranno andare a rimpinguare la dote, o se viceversa l'anno prossimo la crescita dovesse essere più incoraggiante di questo piccolo 1% che quasi tutti gli osservatori internazionali ci danno, beh, si aprirebbe forse qualche margine in più se si ricavasse maggior gettito dalla lotta all'evasione, ad esempio. Beh, certo, io non voglio entrare nel merito dello scudo fiscale, che a mio avviso peraltro ha anche delle ragioni, però vorrei sperare che non sia l'unico strumento per recuperare soldi. Spero, insomma, che il governo e la maggioranza facciano altro, si inventino altro. Abbiamo ancora un minuto che vorrei spendere, forse anche un po' meno di un minuto, sulla disputa che è stata anche filosofica, non solo politica, se vogliamo, persino di caratteri e di stili di vita tra Tremonti e Brunetta, che ha tenuto banco in questi giorni. Tu personalmente che idea ti sei fatto? L'idea che comunque tra i due c'è una rivalità che non è da oggi che si manifesta, cioè i due hanno anche, diciamo, un contrasto personale di tipo caratteriale. Però al di là di questo, evidentemente Brunetta ha voluto lanciare un messaggio, cioè lui ha parlato di una necessità di cambio di passo della politica economica. Allora io credo che questa affermazione, al di là poi della polemica contingente, Tremonti non è un economista, io lo sono, vabbè, lasciamo perdere questi dettagli. Però, questo è politichese. Esatto, però spiccio. C'è del fondamento dietro, perché è evidente che nel momento in cui si ipotizza o si comincia a intravedere la fine della crisi, si possa cominciare a pensare a cosa fare, la cosiddetta fase 2. Prima o poi dovrà arrivare. Allora ringrazio Dino Pesole, purtroppo non abbiamo più tempo, però voglio solo ricordare che c'è un problema che affligge molti italiani, che è quello della disoccupazione, perché l'Ocse vede segnali di ripresa per il PIL e per la produzione, però insomma la disoccupazione è aumentata e probabilmente aumenterà in Italia fino al 2011, e in questa settimana abbiamo assistito anche a delle vicende importanti. Si è cominciato a parlare della chiusura addirittura dello stabilimento Fiat di Termini Imerese. Giovedì abbiamo assistito a degli scontri, a degli attimi di tensione a Roma durante una manifestazione dei lavoratori dell'Alcoa, questo gigante, questo colosso dell'alluminio, che però potrebbe chiudere lo stabilimento in Sardegna. Tema importante, purtroppo non abbiamo tempo per affrontarlo. Ringrazio ancora Dino Pesole, ci troveremo magari alla fine del percorso della finanziaria. Va bene, grazie, volentieri. L'ottavo giorno. In questa ultima parte faremo un breve giro del mondo, apriremo quella che nei giornali si chiama la pagina di esteri. Partiamo però soprattutto dall'ambito ancora economico, perché giovedì dal Dubai arriva una di quelle notizie che sconquassano la finanza di tutto il mondo. Sentiamo Sergio Nava. Ieri sera, di fronte al piccolo terremoto che ha colpito i mercati finanziari internazionali, il governo di Dubai ha finalmente cercato di tranquillizzare le borse. Siamo dovuti intervenire per la necessità di intraprendere un'azione decisiva per far fronte al fardello del debito. Così il presidente del comitato fiscale, lo sceicco Ahmed Ben Said Al Maktoum. Se basterà, lo sapremo oggi con l'apertura delle piazze europee e soprattutto con la riapertura post festiva di Wall Street. Certo è che il timore di un fallimento di Dubai World, la holding statale che controlla colossi del real estate, della logistica, della finanza e dell'energia nel piccolo emirato arabo, ha messo in apprensione i mercati. In pericolo c'è anche la controllata Nakheel. Ne rassicura la richiesta fatta alle banche di sospendere per 6 mesi i pagamenti sul debito pari a 59 miliardi di dollari, mentre proprio su un bond emesso da Nakheel pari a oltre 3 miliardi e in scadenza il 14 dicembre è in corso un tentativo di rinegoziazione. Un crack di Dubai World potrebbe avere pesanti ripercussioni pure sugli istituti di credito europei, che sarebbero esposti per decine di miliardi di dollari. In prima linea ci sarebbero Credit Suisse, HSBC, Barclays, Lloyds e Royal Bank of Scotland. In Italia Unicredit ha comunicato di avere un'esposizione non rilevante, UbiBanca di non averne alcuna. Per rispondere all'interrogativo di Sergio Nava sulle borse, sull'apertura di ieri delle borse, segnalo che dopo il tonfo di quelle asiatiche, anche l'Europa ha aperto in grossa difficoltà, mentre dagli Stati Uniti ieri sono circolate delle cifre davvero folli, inquietanti, sul debito di Dubai, che potrebbe essere addirittura di 80-90 miliardi di dollari. Non riesco neanche a immaginare quanti zeri abbia questa cifra. Da una notizia preoccupante sul piano economico passiamo ad un'altra, purtroppo altrettanto cupa. Si tratta di una strage che arriva ad inizio settimana da quelle che per noi sono spesso lontane e dimenticate, cioè le Filippine. Ritorniamo quindi a martedì mattina con Marco Masciaga. È stata una strage di proporzioni difficili da credere, anche per i violenti standard delle Filippine e in particolare di Mindanao, un'instabile isola nel sud dell'arcipelago. 24 morti, tra di loro anche 13 donne e un gruppo di giornalisti. Alcune delle vittime sono state addirittura decapitate. È successo ieri mattina quando un convoglio di attivisti e reporter si è diretto a presentare la candidatura di un politico locale al ruolo di presidente della provincia di Maguindanao. Uno sgarbo che, secondo gli investigatori, il padrone assoluto della zona, il tre volte governatore Dato Andala Ampatuan, potrebbe non aver gradito. Il convoglio è stato circondato da un centinaio di uomini armati e i suoi membri rapiti, uccisi e seppelliti nel giro di poche ore. Una strage compiuta con tale violenza e determinazione da lasciare immaginare che il prossimo maggio, quando le Filippine andranno alle urne, Ampatuan sarà rieletto nuovamente governatore, come le volte precedenti, per mancanza di avversari. Per restare invece in Asia, spostiamoci in Afghanistan, che è sicuramente la grana peggiore per Obama e per l'amministrazione americana. Questo è il servizio andato in onda lunedì sera di Cristina Balotelli. Nuovo consiglio di guerra del presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che in serata ha convocato i vertici del governo coinvolti nella messa a punto della nuova strategia per Afghanistan e Pakistan. Sarà forse l'ultimo prima dell'attesa decisione sull'invio o meno di nuovi rinforzi. Il generale McChrystal ne ha chiesti 40.000. Lo scorso 26 ottobre si era svolto il precedente consiglio di guerra, nel giorno più sanguinoso per i militari statunitensi in Afghanistan negli ultimi 4 anni. 3 elicotteri caduti, 14 americani morti. Ma il prezzo di questa guerra, oltre che in vite umane, si paga anche in termini economici, 90 miliardi di dollari all'anno. E di Afghanistan si è parlato anche alla riunione del Comitato Atlantico Italiano, ospitato alla Farnesina, alla quale è intervenuto anche il presidente della Camera, Gianfranco Fini. Ne deriva innanzitutto la conferma dell'impegno per la stabilizzazione e la ricostruzione dell'Afghanistan, in cui è in gioco la credibilità della NATO anche per il futuro. Do qualche numero per puntualizzare quello che ha appena detto, abbiamo appena riascoltato di Cristina Balotelli. Il 1° dicembre, quindi la settimana prossima, Obama dovrebbe annunciare ufficialmente l'invio di 35.000 nuovi soldati in Afghanistan, mentre complessivamente dalla NATO dovrebbero arrivare altri 10.000 soldati, e tra questi ce ne dovrebbero essere anche di italiani, perché mercoledì c'è stata una telefonata, molto reclamizzata peraltro da Palazzo Chigi, tra Obama e Berlusconi, e il nostro Presidente del Consiglio ha fatto sapere al collega americano che insomma l'Italia ci sarà, darà il suo contributo, il suo aumento di truppe in Afghanistan. Sempre invece per restare ad Obama, è stata una settimana anche questa molto intensa per lui. In questi giorni, infatti, da un lato ha potuto accogliere un nuovo sì, anche se non è quello definitivo, non sarà l'ultimo, del Senato per la sua tanto amata riforma sanitaria. Poi invece mercoledì Obama fa un annuncio che stupisce molti in positivo. Sentiamo Sergio Nava. Una data di partecipazione e un pacchetto di proposte concrete. Con questa mossa a sorpresa, Barack Obama ha riaperto almeno parzialmente i giochi sul vertice del clima, che prenderà il via il 7 dicembre. Obama, dopo settimane di incertezza, ha fatto sapere che sarà a Copenaghen il 9 dicembre, un giorno prima di recarsi a Oslo per ritirare il Nobel della Pace. Non tornerà però nella capitale danese la settimana successiva, quando i negoziati per ottenere una accordo vincolante sul periodo post-Kyoto entreranno nel vivo. Sul pacchetto operativo Obama gioca d'anticipo, mettendo sul piatto gli obiettivi di taglio delle emissioni approvati a giugno dalla Camera e impegnandosi di fatto a onorarli prima ancora che il Senato li voti in primavera. In sintesi, taglio del 17% delle emissioni di gas serra entro il 2020 rispetto ai livelli 2005 e a salire fino a meno 83% nel 2050. La reazione dell'ONU attraverso il capo negoziatore Ivo de Boer è stata entusiasta. La presenza di Obama può essere vitale per un accordo. Più cauta l'Europa è un punto d'inizio, una base per i negoziati, ma ci sono molti dettagli da chiarire, hanno riferito alcune fonti, mentre il presidente della Commissione Barroso si diceva felice della partecipazione di Obama. Tutti i leader europei, compreso l'italiano Berlusconi, saranno nella capitale danese negli ultimi 2 giorni di vertice. È come se siamo stati di fronte ad un effetto domino. Sempre a proposito di clima, giovedì è arrivato un annuncio importante della Cina, che ha fatto sapere quello che è il suo programma, quello che è il suo intendimento in vista del vertice di Copenaghen. Taglio del 40-45%, quindi quasi della metà, delle emissioni di carbone entro il 2020. Ho letto molti articoli, devo dire, su questo tema che mi interessa particolarmente. Mi ha colpito un'espressione che ho trovato sulla stampa, perché commentando la scelta cinese, l'annuncio cinese, ha parlato di promessa mastodontica, quindi davvero importante. Speriamo non sia a questo punto una promessa da marinaio. Noi ci fermiamo, ricordo la mail ottavogiorno@radio24.it. Ringrazio Valerio Rocchetti in regia, mi scuso per la voce non proprio impeccabile oggi, e vi rimando a sabato prossimo alle 9 oppure in replica alle 23, sempre su Radio 24.